fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E salve ragazzi, noi siamo in diretta col confessionale di grande sorella e ho qui lo sposo ufficiale della serata, che si chiama? Marco. Marco, Marco, da dove vieni? Milano. Adesso sì. Allora, potete sapere che da tutta serata che mi dice che è napoletano, ma in realtà non è napoletano, perché non mi puoi venire a dire vicino a me che sono napoletana, che sei anche tu napoletano. Ti sgamo. E quindi abbiamo scoperto che è di Milano. Nulla da dire per i milanesi, eh? Ok. Ok. Io in verità non sono neanche di Milano, ma sono ormai di Lecco. Di Lecco. Perché sposa? Sposa di Lecco. Di Lecco. Hai visto quante cose so? Ormai siamo in Serie B. Siete in Serie B, vabbè, non me ne intendo molto di calcio. Okay. Dimmi un po', quando ti sposi? 13 luglio. 13 luglio? 13 luglio. Ah, quindi proprio tra 15 giorni. Villa Valenca. Villa, no, non conosco la zona. È qua a Franciacorta, vicino. Ah, va bene. E la sposa invece come si chiama? Susanna. Susanna. Che è l'addio al... Sì. Al bar. Ha festeggiato già lei? A Riccione. Ah. Oggi. Anche lei oggi? Oggi. E cosa ha combinato? Non lo sai? Non lo so. Sei curioso? Noi siamo andati in barca. Ah, vabbè, avete fatto la barca e poi il convento. Eppure avevi fatto, ti hanno organizzato un bello addio a celibato. Non no. Posso dire niente. No, non puoi dire niente. Sono stati bravi. Sono stati bravi, dai. E ti penso che ti stai anche divertendo, no? Stai sicuro che mi sto divertendo. Ok. Più tardi ti metteranno la musica, sì, che hai chiesto. Ok. Va bene. Martina è un po'... Martina ha le sue tempistiche come musica, ma ti metterà quello che vorrai. Hai detto che te la mette, però. Quindi. Speriamo non è contenta. Va bene. Allora io ti lascio andare a ballare con i tuoi amici che ti aspettano. Grazie. Perché altrimenti ti danno per disperso. Infatti. Va bene. Ti auguro un buon proseguimento e tanti auguri per il tuo matrimonio. Ciao a tutti. Ciao. Da Marco. Marco e Valentina. Alla prossima.